A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Chi tradisce muore, è legge da noi. C'è rassegnazione e quasi accettazione nelle parole di Giusy Pesce mentre racconta ai PM la sorte che tocca a quella donna che decidesse di avere una nuova relazione fuori dal matrimonio, anche se il marito fosse in carcere. L'accettazione nasce da secoli di codici d'onore tramandati e incrostati nella testa della gente, tali da trasformare la Calabria del 2013 in un medioevo vicino all'Afghanistan dei talebani. Un paragone esagerato, penserete, ma forse non la penserete più così, entrando nelle vite delle donne che invece hanno deciso di andare contro tutto questo. Femmine ribelli, per dirla col titolo del libro di Lirio Abate, storie drammatiche a volte, a lieto fine delle altre, storie che come più volte qui in A Ciascuno il Suo abbiamo raccontato, dimostrano però che le cose possono cambiare e forse stanno già cambiando se è vero ad esempio che un boss di 'ndrangheta si è consegnato da solo ai carabinieri come non era mai successo prima e se è vero che Giusy Pesce, figlia di una delle più importanti famiglie della Piana di Gioia Tauro, è ora una delle principali collaboratrici di giustizia. È la prima volta infatti che un capomafia latitante, reggente di un clan calabrese, decide di costituirsi, di piegarsi allo Stato, di mettersi proprio nelle mani dello Stato e farsi arrestare. Questa cosa getta discredito sul nome dei Pesce, che da secoli sono i capi della Piana di Gioia Tauro. Però tutto questo coincide col fatto che c'è stata un'aggressione violenta da parte dello Stato ai favoreggiatori dei Pesce. C'è stata un'attività simbolica di collaborazione, possiamo dire, delle donne del clan Pesce. Simbolica perché? Perché le donne in effetti non è che conoscano tanti segreti o tanti misfatti dei clan o dei propri uomini, però hanno portato in maniera significativa a rappresentare un gesto, cioè che le donne possono ribellarsi, che in qualche modo le donne possono dire di no ai boss, ai propri uomini. E questa cosa ha scardinato di fatto delle regole che prima di Giusy Pesce nessuno aveva mai pensato, nessuno aveva mai voluto interpretare. Quella di Giusy Pesce, cioè una donna che collabora e tradisce, e questo invece di Giuseppe Pesce, questo capo mafia latitante che si costituisce, manda all'aria tutte quelle regole che conoscevamo nel corso dei secoli. Ecco, adesso la raccontiamo anche più nel dettaglio la storia di Giusy Pesce, però comunque, ecco, in qualche modo secondo te la consegna di questo boss è quindi un ulteriore attestato e dimostrazione anche di debolezza personale e anche del clan nel suo insieme, può essere un effetto di questo gesto rivoluzionario, anche di ribellione al di là di quanto è stato raccontato da parte di Giusy Pesce e delle altre donne? Sì, dimostra la debolezza, però dimostra anche il fatto che sì, è un gesto sicuramente pensato, sarà stato forse anche concordato con qualcuno che è più in alto rispetto a Pesce, magari col fratello che è detenuto in carcere col 41 bis, al 41 bis che è Ciccio Pesce. Dimostra la debolezza di queste giovani generazioni di mafiosi, ma dimostra anche il fatto che quando lo Stato c'è è forte e schiaccia, ti costringe a piegarti. Però certo è da capire, io spero che questo l'abbiano capito, spero lo capiranno presto gli investigatori, che se un Pesce latitante decide di costituirsi e di interrompere la propria latitanza, significa che già un altro capo mafia è stato designato e lo scelto è già stato passato ad un'altra persona. Soprattutto bisogna capire perché appunto Giuseppe Pesce, che ha anche la moglie arrestata, una donna che ha 7° mese di gravidanza, decide di fare una scelta del genere. Ci sono stati nel passato tanti mafiosi che hanno portato nella loro latitanza non solo le mogli in gravidanza, ma anche i figli, i familiari. Non si sono fatti questi scrupoli. Penso che forse oggi questo gesto, a partire da Giusy Pesce, da questa donna che per amore inizia a collaborare, può forse aver incrinato qualche cosa nel sistema 'ndrangheta. Questa storia è significativa anche perché smonta un po' uno dei grandi luoghi comuni di alcune terre mafiose, a cominciare dalla Calabria, per cui c'è questo pessimismo diffuso, per cui la gente dice tanto non cambia mai niente. Invece, diciamo, l'aggressione forte che c'è stata negli ultimi anni e le reazioni in termini di collaborazione, ora con questo gesto assolutamente anomalo della consegna di un boss, dimostra che qualcosa appunto può cambiare, è un segnale positivo. Citavi Ciccio Pesce, nel tuo libro tu dedichi un capitolo significativo al califfo di Rosarno, significativo non solo per il profilo che questo boss aveva, ma anche perché appunto la sua storia è la dimostrazione anche del modo in cui le donne delle famiglie mafiose, ma non solo, in quelle terre vengono considerate. A Ciccio Pesce in qualche modo spetta una sorta di ius prime noctis. Questa è una cosa medievale che purtroppo nel 2013 ancora oggi avviene a Rosarno, nella piana di Gioia Tauro. Ciccio Pesce è il califfo, così è soprannominato, perché le donne in qualche modo si piegavano al boss, non erano costrette, questa è la cosa che bisogna sottolineare, no, nessuna di loro era costretta a subire. Ciccio Pesce chiamava, le donne correvano, e nonostante il fatto che Ciccio Pesce è sposato e padre di una bambina, questa cosa non ha impedito di avere tutte le amanti e tutte le donne che voleva, anche durante la latitanza. Ci fa capire che tipo di mentalità c'è in Calabria, che tipo di mentalità hanno anche le donne, non solo quelle che si ribellano, ma anche quelle che si piegano alla mafia. Perché devi considerare che se si ribellano, si sono ribellate quelle poche donne, in cui il film Ribelli parla e descrive, è perché erano in pericolo di vita, e soltanto allora, quando capiscono che loro sono in pericolo di vita, cioè la loro vita è segnata, cioè verranno uccise, che allora si ribellano, allora cercano la via di uscita, l'unica via di uscita è lo Stato. Le intercettazioni che tu riporti, anche dei rapporti tra Ciccio Pesce e le sue donne, sono uno spaccato pazzesco di questa società e del fatto di come nelle famiglie stesse in qualche modo si spinga la donna o la ragazzina giovane ad andare nelle braccia del boss per riceverne benefici, quasi come, facendo le dovute proporzioni, in altri contesti si spingono le ragazzine a frequentare uomini potenti per andare a accedere al mondo dello spettacolo. Sì, il paragone è azzeccatissimo, quello che accade qui e si registra nelle intercettazioni. Io riporto l'esempio di un padre che spinge la figlia diciottenne ad andare a trovare il boss latitante, dice: quando vai a trovarlo, prima che vadano le altre, prima che le altre diventano la preferita del califfo, proprio perché? Non perché sanno che poi diventerà la loro donna, la donna del boss per tutta la vita, la moglie, no, perché la moglie già c'è la casa, ma l'amante. E l'amante per la loro mentalità è ti porta prestigio sociale, cioè allora interessa la società se ti rispetto meno. E non solo, se tu sei il papà dell'amante del boss latitante, la gente ti rispetta perché sei il papà dell'amante, ma l'amante ne riceve anche dei benefici economici, perché Ciccio Pesce dà a queste donne poi gestione di attività commerciali, macchine, appartamenti, per cui lo fanno per una questione soprattutto economica, ma è poi per un rispetto sociale, quella società che da una parte ti favorisce se sei l'amante del boss latitante, ma che ti condanna, e ti condanna anche a morte se tu sei una donna, fra virgolette, onesta, e che vuoi divorziare dal marito, allora vieni, sei una svergognata e per questo devi morire. Giustamente, con un paragone molto forte ma assolutamente efficace, definisci queste regole e questo modo di comportarsi in questa terra come l'Afghanistan dei talebani, laddove appunto vigono le stesse tipo di regole dell'onore, laddove vige anche lo stesso tipo di punizione per le donne che ad esempio decidono semplicemente di divorziare spesso da mariti con cui si sono sposate praticamente dopo una fuitina a 13 anni, si sono sposate poco più che maggiorenni, quindi i rapporti quando non sono anche matrimoni combinati. Questo però ha a che fare anche con un altro aspetto. Tu segnalavi come le donne di Ciccio Pesce loro stesso non sono costrette a concedersi a lui, ma lo fanno. Allo stesso modo ci sono molte altre donne che, diciamo, quasi accettano con rassegnazione la regola d'onore atavica della loro terra, per cui la donna che decide di tradire, la donna che tradisce il marito, casomai arrestato da anni, deve morire. Alcune collaboratrici, molte, ma anche la stessa Giusy Pesce, quando parla di questa regola che vige in Calabria, ne parla con rassegnazione, dice: io lo so, ho sbagliato e devo pagare. È una cifra molto diffusa? Purtroppo è diffusa. Le donne, ma anche gli uomini, ma soprattutto le donne che sono vittime di questi soprusi, che sono le donne oggetto, per loro è normale diventare mamme a 14 anni, mamma per la seconda volta a 15 o 16 anni, e loro combinare il loro matrimonio con altri, con i figli di altri mafiosi o con mafiosi. Per loro è normale vivere segregate in casa senza poter uscire da sole. Per loro è normale non accedere a internet o non aprire un profilo Facebook. Per loro è normale non entrare in un bar a prendere un caffè come si fa in tutto il resto del mondo occidentale. Per loro è normale subire anche il fatto che il marito possa avere l'amante. Per loro questo è normale. Ma questa è la cosa che mi fa veramente arrabbiare, perché tutto questo, se a queste donne fosse spiegato che quello che loro stanno vivendo e che vivono è una cosa anormale, è una cosa fuori dal mondo, allora potrebbe incominciare a inclinarsi, così come ha fatto Giusy Pesce. È il canale, è il modo per cui l'hanno capito, è stato internet. Internet è entrata nelle case di queste donne e ha fatto conoscere l'amore. Ha fatto conoscere l'amore, l'amore per se stessi, l'amore per un altro uomo vero, l'amore per i figli, l'amore per vivere una vita diversa da come l'hanno vissuta. Loro sono cresciute, queste donne, dentro una bolla di mafiosità, dentro una bolla mafiosa. Non sono mai andate fuori da Rosarno, fuori dalla piana di Gioia Tauro. Cioè, non hanno mai fatto un viaggio a Roma per capire com'è Roma, per cui sono rimaste lì, segregate. E loro in questa segregazione sono vissute bene. Sono, diciamo, è quella la cosa che ti fa rabbia. Per cui l'informazione, un libro, la radio, che entra nelle case, a forza ti può far comprendere che quella che vivono non è la normalità. La normalità è vivere un amore diverso, liberamente, avere libero pensiero. È questo che accade, ed è questo che, quando Giusy Pesce racconta ai magistrati: io mi sono innamorato di un altro uomo, non posso vivere con questo altro uomo, perché se lo dico a mio marito devo essere uccisa, ne sono consapevole, così, e racconta come altre storie sono accadute nel passato di altre donne che magari si sono innamorate di un carabiniere, come la cugina. La cugina o di altre ancora, ne racconta come sono state uccise queste donne solo perché si sono innamorate di un altro uomo. A tutte le femmine ribelli è dedicata la terza edizione di Trame, il festival dei libri di mafia di Lamezia Terme e di altre storie terribili, incredibili, ma anche coraggiose. Parliamo nella seconda parte di A ciascuno il suo. A ciascuno il suo. Quando l'onore viene ferito, solo una è la risposta: la morte del colpevole per mano dei suoi stessi familiari, per mano dell'uomo di casa. Questo succede ancora nella Calabria dell''Ndrangheta, nella terra delle donne infelici, a cui è proibito talvolta anche immaginare il proprio futuro, ma devono solo aspettare che quello che è deciso si compia, compresa la morte se tradiscono, come ricostruisce Lirio Abate in Femmine ribelli. Queste donne uccise dai fratelli o dai padri per lavare l'onta dell'onore che era stato macchiato secondo questa regola tribale, e vengono prese, prelevate, fatte scomparire, uccise nei boschi, sotterrate oppure messe in tombe senza un nome, proprio per non identificarle al pubblico, ma dove una madre può andare a piangere, ma quella stessa madre che sa che il marito o il figlio l'ha uccisa. E molte volte per ucciderle questi omicidi vengono camuffati da suicidi, finti suicidi, facendo bere alle vittime l'acido muriatico. Ecco, questo infatti volevo proprio avere un confronto con te su questo. Questo acido muriatico, che adesso anche in Italia, come avviene nei paesi dell'est, in Sud America, la cronaca ci racconta che ex mariti, ex compagni, a volte o su commissione, fanno lanciare contro le loro ex donne per sfregiarle, per colpirle, per lasciare quel segno indelebile dell'onta casomai di averle lasciate, nelle donne calabresi, soprattutto di alcune famiglie mafiose, che appunto tradiscono il marito e con lui anche l'intero mondo, per di più poi se decidono di collaborare, vengono costretti a bere questo acido muriatico che le uccide in pochi sorsi, ma anche in un modo non solo straziante, ma ancora una volta sono dei finti suicidi che però devono lasciare una firma perché si capisca che cosa è successo. Ecco, tu che legame vedi tra la cronaca, diciamo, di violenza alle donne fuori da questi territori, però attraverso l'acido, e invece quello stesso acido muriatico che queste donne sono costrette a bere? Sono due cose differenti. Chi sfregia le donne, così come è accaduto negli ultimi episodi di cronaca in giro per l'Italia, sono semplici teppisti, gente che forse lo fa anche per gioco, per piccole vendette. O per vigliaccheria, perché è più semplice. Anche per vigliaccheria, perché nel buio della notte o dietro un angolo fai questa cosa contro una donna. Quelli sono teppisti. Il mafioso non è, con quel gesto dell'acido vuole dare una firma, vuole dire sì, siamo stati noi, e lo trasmette alla società, quella società sempre complice, dire guardate, se fate una cosa del genere ecco cosa vi accade, ma non le sfigura nel volto, le sfigura nell'anima, perché l'acido lo fanno bere, cioè rovina l'anima, non il volto della donna. Cioè il mafioso in certo modo non è vigliacco perché si nasconde, lancia il messaggio, cioè la società che deve recepire quel segnale lo riceve perfettamente, comprende che quella è la mano della mafia, la mano di una famiglia che vuole lavare l'onta del disonore in virtù di questa legge d'onore che l'Andrangheta e la società favorisce, la società calabrese, non tutta quella calabrese ma di queste zone, della Piana di Gioia Tauro, in molte zone di Reggio Calabria, del Catanzarese, che favorisce, per cui sono due cose differenti, però certo è l'acido. Ecco Lirio, tu racconti tante storie, alcune sono un po' più note perché hanno collaborato, perché in la cronaca a un certo punto ha raccontato delle loro dichiarazioni, perché ci sono dei processi, ma da quello che emerge dal tuo film I Neri Belli è che per alcune storie che sono note, molte altre di donne, casomai morte, scomparse, trovate agonizzanti, hanno avuto un percorso, una storia che è ancora tutta da scrivere, tutta da definire, cioè di delitti che non sono ancora chiari, quindi le cifre sembra emergere sono ben più preoccupanti di quelle già drammatiche che conoscevamo. Abbiamo saputo attraverso i collaboratori di giustizia, attraverso Giustizia Pesce, che ha raccontato la morte e l'uccisione di alcune donne di cui si sapeva che erano scomparse o che erano addirittura si erano suicidate, e riaprendo quei fascicoli, vedendo quei referti medici, si è capito da tanti segnali, ma si potevano capire già da subito che quelli non erano suicidi ma erano degli omicidi veri e propri, e nessuno ha approfondito, forse perché, ecco, ritorniamo alla società, cioè tutti sono complici in quella società, dal medico all'avvocato all'investigatore fino appunto al mafioso, sono tutti legati, e in film I Ribelli racconto questo legame, racconto come una donna, Cetta Cacciola, viene individuata attraverso una lettera anonima, dice che racconta al padre, guarda tua figlia tradisce il marito su Facebook, cioè pensate che cosa, e questo l'aspetta a casa insieme al fratello e la picchiano, la riempiono di lividi, tanto che le danno così tante botte che le rompono le costole, doveva portare in ospedale, invece resta a casa arriva un medico vicino al clan che la cura, non denuncia nulla e sta in silenzio, così quanti altri casi ci sono stati, e gli avvocati che insieme a loro fanno delle complicità proprio per disarticolare, per diffamare queste pentite o queste donne che collaborano, ecco, è la società che non è solo 'Ndrangheta, l'Ndrangheta è l'aggravante in questa società, è la società che deve cambiare la mentalità. Ecco, questo avviene in queste parti della Calabria nel 2013, in un'epoca in cui appunto dovrebbe tutto cambiare, dovrebbe essere tutto diverso, però il problema è che se la società non cambia sarà difficile andare a contrastare l'Ndrangheta, perché sarà sempre più favorita. Ecco Lirio, tu con Femmine Ribelli ti dedichi all'Ndrangheta, alle donne calabresi delle famiglie di 'Ndrangheta, però sei siciliano, ti sei sempre occupato di Sicilia, hai scritto anche libri sulla Sicilia. Su questo fronte, quello delle donne che collaborano e anche delle loro punizioni, diciamo, che le famiglie mafiose destinano loro quando collaborano con la giustizia, Hai trovato delle differenze di regole tra Calabria e Sicilia? Sono due territori completamente diversi. Sono due realtà diverse, due tipi di donne diverse. Sì, in Sicilia le trovi donne che hanno favorito i mafiosi. E alcune sono state accusate anche di essere state a capo di alcuni clan quando i loro familiari già erano stati tutti arrestati, per cui hanno preso le redini e hanno ordinato omicidi, estorsioni, hanno fatto proprio il capo, hanno messo i pantaloni, ma non sono tantissimi. Cioè, le donne poi in Sicilia comunque hanno di fatto poi avuto una sorta di ribellione già in passato. Certo, c'erano anche quelle donne che quando sapevano che un proprio familiare stava collaborando con la giustizia si vestivano a nero, protestavano in mezzo alla strada, facevano vedere che appunto si distaccavano da tutto il resto, ed erano le donne che scendevano in strada vestite a lutto. Ci sono anche quelle donne che invece iniziano a collaborare in Sicilia, perché c'è una mentalità diversa, una maturazione diversa del fattore antimafia o del fattore della carità in Sicilia, che purtroppo è arrivato dopo le stragi e con le stragi. Come in Calabria ancora non c'è. La Calabria non c'è, la Calabria a vederla oggi è 30 anni indietro rispetto alla Sicilia, e la Sicilia già è indietro rispetto all'Italia in alcune zone. E allora la Calabria ha bisogno di essere illuminata, di essere in qualche modo raccontata, ma con un linguaggio, una storia diversa. Faccio mia un'affermazione che ha fatto Pif paragonando le donne siciliane a quelle calabresi. Ha detto: le donne siciliane rispetto alle calabresi sono Sex and the City. Sappiamo che i mafiosi, alle famiglie mafiosi, non sfuggono neanche le pubblicazioni che escono sul loro conto. Così è stato anche per Fimmini Ribelli. Cioè, quando è uscito il libro, i boss che erano citati in qualche modo si sono passati parola e l'hanno anche letto, anche se non proprio andando in libreria. Ci sono alcune cose che sono proprio strane. Le indagini che seguono ci rivelano che da quando è uscito Fimmini Ribelli, gli indranghetisti, i mafiosi, favoreggiatori dei Pesce, dei Bellocco a Rosarno ne hanno incominciato a parlare, le intercettazioni ce lo rivelano, e c'è un dialogo di cui sono venuto a conoscenza fra due mafiosi importanti, e uno racconta all'altro: ho visto questo autore che parlava di questo libro in televisione, racconta di queste cose di Ciccio Pesce, e parlano male dell'autore del libro, dicendo: ma una vergogna, che cosa dice? E allora l'altro non aveva ancora letto il libro e dice: guarda, è una cosa impressionante, lo devo andare a vedere, perché domani lo vado a comprare. L'altro lo blocca subito, dice: no, ferma, cioè non andarlo a comprare, ti faccio le fotocopie, non bisogna andare a incrementare il ricavo che può avere questo autore dal libro. Ecco, anche in questo, adesso ironizzando, si può dire che la 'ndrangheta blocca anche l'espansione editoriale, ma noi anche con le fotocopie vorremmo che queste storie si diffondessero e venissero denunciate. Donne protagoniste di questa terza edizione del Festival Trame dal cuore della Calabria, e con Radio 24 siamo in prima fila contro le mafie. Tutti i dettagli sul sito radio24.it, dove è possibile riascoltare tutte le puntate di A Ciascuno il Suo. Mi trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce o su Twitter, l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto!